Tutti coloro che sono nella verità sono fanciulli agli occhi di Dio. La Scrittura ci designa come bambini, agnelli, pulcini, puledri. Che la pedagogia sia l'educazione, agoghe, dei fanciulli, paidon, risulta chiaro dalla parola stessa. Quel che invece ora ci rimane da fare è indagare attentamente su questi fanciulli ai quali allude la Scrittura e poi assegnar loro il pedagogo come guida. I fanciulli siamo noi. Frequentemente la Scrittura inneggia a noi e in diversi modi e con svariati nomi si riferisce allegoricamente a noi per designare la semplicità della fede. Nel Vangelo, ad esempio, dice: «Fermatosi sulla riva, presso i discepoli che stavano pescando, il Signore si rivolse a loro: "Bambini, avete del pesce da mangiare?" Li chiamò bambini, in quanto si trovavano già nello stato di discepoli. Gli portarono, dice, dei bambini affinché li benedicesse imponendo loro le mani. I discepoli li fermarono, ma Gesù disse: "Lasciate i bambini e non impedite loro di venire a me. Di tali, infatti, è il regno dei cieli." Quale sia il senso di queste parole, il Signore stesso lo spiega quando dice: "Se non vi convertirete e non diventerete come questi bambini, non entrerete nel regno dei cieli." Qui non allude alla rigenerazione del battesimo, ma ci affida piuttosto il compito di imitare la semplicità dei fanciulli. Anche lo spirito dei profeti concorda nel chiamarci fanciulli. Raccolti i rami di ulivo o di palme, i fanciulli uscirono incontro al Signore gridando: "Osanna al figlio di David, benedetto colui che viene nel nome del Signore. Luce, gloria e lode con supplica al Signore." Questo è il significato di Osanna, tradotto in lingua greca. Mi pare in verità che la Scrittura, tramite l'allusione delle parole profetiche appena citate, intenda rivolgersi con biasimo ai neghittosi. Non avete mai letto quel che sta scritto: dalla bocca dei bambini e dei lattanti ti sei procurato una lode. Così anche il Signore, nel Vangelo, stimola i discepoli, li esorta a prestargli attenzione, poiché egli ormai sta tornando al Padre e vuole ispirare ai suoi ascoltatori un sentimento di forte desiderio, annunciando loro che fra poco se ne andrà e invitandoli a raccogliere con tutte le loro forze i frutti della verità, fin tanto che il Logos non sarà risalito al cielo. Anche in questo caso li chiama bambini. Dice infatti: "Bambini, ancora per poco sono con voi." Altrove paragona il regno dei cieli a dei bambini che siedono nelle piazze e dicono: "Abbiamo suonato per voi il flauto e non avete ballato, abbiamo cantato per voi lamenti e non vi siete battuti il petto." E anche in altri passi pronunciò parole simili. Del resto non è solo il Vangelo che afferma ciò, anche i libri profetici sono dello stesso parere. Davide, ad esempio, dice: "Lodate, fanciulli, il Signore, lodate il nome del Signore." E per bocca di Isaia è detto: "Eccoci, io e i bambini che Dio mi ha dato." Ti meravigli nel sentir chiamare fanciulli agli occhi del Signore quelli che per i pagani sono uomini? Pare allora che tu non conosca bene la lingua attica, la quale ci insegna che le ragazze belle e attraenti, nonché di condizione libera, vengono chiamate fanciulline e le giovani schiave fanciullette. Le si onora con tali diminutivi vezzeggiativi a motivo della loro fiorente giovine età. Così, quando il Signore dice: "I miei agnellini siano posti alla mia destra", allude ai semplici, cioè ai fanciulli, che sono come gli agnelli, mentre gli uomini appartengono al genere delle pecore adulte. Egli ha ritenuto degni di essere privilegiati gli agnellini, il che significa che negli uomini apprezza la delicatezza e la semplicità dell'animo, ossia l'innocenza. E ancora, quando dice "come vitelli lattanti", si riferisce allegoricamente a noi, e così pure quando dice "come colomba senza malizia e senza ira". Per bocca di Mosè poi comanda di offrire in espiazione dei peccati due pulcini di colomba o una coppia di tortore. Vuol dire con ciò che a Dio è gradita l'innocenza, la tenerezza, l'assenza di malizia e di rancore dei pulcini, e ci fa comprendere in tal modo che il simile purifica il simile. Ugualmente la timidezza delle tortore simboleggia la circospezione di fronte al peccato. Che poi dicendo pulcini si riferisca a noi, la scrittura stessa lo testimonia. Come la gallina raccoglie i suoi piccoli sotto le sue ali, così noi siamo i pulcini del Signore. È una maniera davvero mirabile e mistica questa con cui il Logos, parlando dell'età infantile, designa la semplicità dell'anima. Alcune volte, infatti, ci chiama fanciulli, altre volte pulcini, bambini o figli, e spesso popolo novello, popolo nuovo. I miei servi, dice, saranno chiamati con un nome nuovo, cioè novello, eterno, immacolato, semplice, come di bambini, veritiero, che sarà benedetto sulla terra. Ci chiama anche, metaforicamente, puledri, in quanto non aggiogati dalla malizia, non domati dalla cattiveria, semplici e saltellanti soltanto verso il loro padre, non cavalli che nitriscono dietro le donne dei loro vicini, cavalli schiacciati dal giogo e pazzi per le femmine, bensì liberi, giovani, fieri della loro fede, rapidi corridori verso la verità e la salvezza, che galoppando calpestano a terra le cose del mondo. Esulta assai, o figlia di Sion, grida, o figlia di Gerusalemme, ecco, il tuo re viene a te, re giusto e salvatore. Egli è mansueto e cavalca un giumento e un giovane puledro. Non dice solamente puledro, ma aggiunge anche giovane, per indicare la giovinezza dell'umanità in Cristo e l'eternità che non invecchia, che è fatta di semplicità. Il divino domatore, dunque, alleva questi giovani puledri, cioè noi, i bambini. E se poi il giovane della scrittura fosse un asino, si tratterebbe comunque di un puledro d'asino. Legò il suo puledro alla vite, ossia legò il suo popolo, semplice e bambino, al Logos, designato allegoricamente come una vite. La vite, infatti, dà il vino, il Logos dà il sangue. Entrambi danno agli uomini una bevanda salutare, il vino per il corpo, il sangue per lo spirito. Che noi siamo chiamati anche agnelli, ne è testimone chiaramente lo spirito, che per bocca di Isaia dice: «Come un pastore egli pascola il suo gregge e con il suo braccio raduna gli agnelli». Dice allegoricamente agnelli per indicare la semplicità, poiché essi sono ancora più teneri delle pecore. Significato spirituale di bambino e di uomo. D'altronde, due delle cose più belle e più perfette che ci siano in questa vita, l'educazione e la pedagogia, anche noi onorandole le designiamo con termini che rimandano alla fanciullezza. Possiamo dire che la pedagogia sia il condurre i giovani nel modo migliore dalla fanciullezza alla virtù. Il Signore stesso, con molta chiarezza, ci manifesta che cosa indichi il termine bambino. Gli apostoli avevano cominciato a discutere chi fosse il più grande fra di essi. Allora Gesù mise al centro un bambino e disse: «Chi si farà piccolo come questo bambino, quegli è il più grande nel regno dei cieli». Egli, infatti, non utilizza il termine bambino per indicare l'età in cui si è ancora privi di ragione, come è parso ad alcuni, e quando dice «se non diverrete come questi bambini, non entrerete nel regno dei cieli», non bisogna intendere la frase superficialmente. Noi non siamo più bambini che si rotolano per terra e strisciano a mezzo di serpenti sul suolo, come prima, e si rivoltano con tutto il corpo nei desideri irrazionali. Noi tendiamo in alto con la nostra mente e abbiamo rinunziato al mondo e al peccato. Tocchiamo terra con la punta dei piedi, quel tanto che basta perché si possa dire che viviamo nel mondo e perseguiamo la santa sapienza. Questa certo sembrerà una follia a quelli che sono esperti di astuzie e malvagità. Ma coloro che hanno conosciuto solo Dio come padre sono senz'altro fanciulli. Sono semplici, bambini, integri, amanti delle corna degli unicorni. A coloro che hanno progredito nel Logos, egli annuncia queste parole invitandoli a non curarsi delle cose di quaggiù e a rivolgere la loro attenzione solamente al Padre imitando i bambini. Per questo, poco dopo, aggiunge: «Non preoccupatevi del domani, a ogni giorno basta il suo male». In tal modo egli ci ingiunge di mettere da parte le preoccupazioni di questa vita e di abbandonarci al solo Padre. Chi mette in pratica questo precetto è realmente un bambino e un fanciullo agli occhi di Dio e anche agli occhi del mondo, ma per quest'ultimo lo è in quanto ingannato, per Dio invece lo è in quanto amato. E se, come dice la Scrittura, uno solo è il Maestro nei cieli, allora dobbiamo riconoscere che tutti coloro che sono sulla terra saranno chiamati discepoli. La verità infatti è questa: il Signore, essendo perfetto, insegna sempre, noi che siamo bambini sempre impariamo. Anche nei libri profetici ciò che è perfetto viene onorato con il nome di uomo. Così sta scritto per mezzo di David parlando del diavolo: «Il Signore ha in abominio l'uomo sanguinario. Lo chiama uomo perché è perfetto nel male». Lo stesso Signore poi viene chiamato uomo perché è perfetto nella giustizia. L'Apostolo, ad esempio, scrivendo ai Corinzi, dice: «Vi ho fidanzati a un solo uomo, come vergine pura da presentare a Cristo, ovvero come bambini e santi di fronte all'unico Signore». Assai apertamente poi, rivolgendosi agli Efesini, ha chiarito ciò che stiamo indagando con queste parole: «Fino a quando perverremo tutti all'unità della fede e della conoscenza di Dio, all'uomo perfetto, alla misura dell'età del Cristo totale, per non essere più bambini ondeggianti e sballottati da ogni vento di insegnamento per l'inganno degli uomini e per la loro astuzia nell'appianare la strada dell'errore, ma pratichiamo piuttosto la verità con la carità e cresciamo in tutto verso di Lui». Afferma ciò in vista dell'edificazione del corpo di Cristo. Egli è il capo, è l'unico uomo perfetto nella giustizia. Noi invece, che siamo bambini, diveniamo perfetti solo allora quando, evitando di lasciarci gonfiare e deviare dai venti delle eresie e negando fede a coloro che ci impongono altri padri, siamo noi stessi Chiesa, avendo ricevuto in noi il Cristo, che ne è il capo. A questo punto è giusto che concentriamo la nostra attenzione sul termine bambino. Esso infatti non designa colui che è privo di intelligenza. Questi è detto puerile, nepitios. Bambino invece è colui che è nuovamente dolce, neepios. Dolce, epios, è la persona dai pensieri teneri, che è divenuta dolce in maniera nuova e mite nei modi. È questo che con molta chiarezza il beato Paolo fa intendere quando dice: «Noi potevamo, in quanto apostoli di Cristo, avere potestà, ma ci facemmo dolci, epioi, in mezzo a voi, come una madre che tiene in braccio i suoi figli». Il bambino dunque è dolce e perciò è anche più innocente, delicato, semplice, senza inganni e senza finzioni, giusto e retto di mente. E questa, invero, è l'essenza della semplicità e della verità. A chi, dice, rivolgerò lo sguardo, se non al mite e al pacifico? Tale è anche il linguaggio delle vergini, delicato e limpido. È per questo che si ha l'abitudine di chiamare fanciulle innocenti le vergini e innocenti nei pensieri i giovinetti. E allo stesso modo siamo innocenti noi, che siamo delicati e docili, sempre disponibili alla bontà, privi di collera, di malizia e di tortuosità. La generazione antica era tortuosa e dura di cuore. Noi, invece, siamo il coro dei bimbi, il popolo nuovo, tenero come un fanciullo. Nella lettera ai Romani, l'Apostolo dice di gioire per i cuori senza malvagità e dà, in un certo senso, una definizione di bambini quando dice: «Voglio che voi siate saggi verso il bene e integri contro il male». La costante giovinezza della Chiesa. La parola bambino, nepios, in vero, non è da noi intesa in senso privativo, quantunque i grammatici abbiano stabilito che quel ne è privativo. E allora, se coloro che avversano questo concetto di bambino ci vogliono chiamare privi di intelligenza, guardate che bestemmia è la loro contro il Signore, giacché considerano privi di intelligenza quelli che hanno preso rifugio in Dio. Ma se anch'essi, come dobbiamo più probabilmente pensare, vorranno accogliere il termine bambino nel senso di semplici, rallegriamoci di tale denominazione. Bambine sono le menti novelle, intelligenze nuove in mezzo alla vecchia stoltezza, che sorgono come aurora con la nuova alleanza. È da poco, infatti, che Dio è stato conosciuto grazie all'avvento di Cristo, poiché nessuno ha conosciuto Dio se non il Figlio, e colui al quale il Figlio lo rivelerà. Il popolo nuovo è dunque un popolo di giovani, in opposizione al popolo vecchio, e apprende i beni novelli. La nostra è l'età della fecondità, la giovinezza che non invecchia, nella quale siamo sempre all'apice della nostra forza, sempre giovani, sempre dolci, sempre nuovi. Bisogna infatti che siano nuovi coloro che hanno ricevuto in sé il Logos nuovo. Ora, ciò che prende parte all'eternità tende naturalmente ad assimilarsi all'incorruttibile. Pertanto, questa nostra età infantile che ci designa è per noi la primavera di tutto il nostro esistere, poiché la verità che è in noi non invecchia ed irriga la nostra vita. Questa sapienza è sempre verdeggiante, è sempre uguale e costante e non cambia mai. I loro bambini, sta scritto, saranno presi in braccio e tenuti sulle ginocchia. Saranno confortati con dolci parole. Come fa una madre, così anch'io vi conforterò con dolci parole. La madre prende per mano i suoi bambini. Anche noi cerchiamo la nostra madre, la Chiesa. Invero, tutto ciò che è debole e delicato, proprio per la sua debolezza e il suo bisogno di aiuto, piace ed è dolce e bello. E certamente Dio, a una creatura così piccina, porterà il suo soccorso senza alcun indugio. I padri e le madri, infatti, vedono con più piacere i loro figli che chiunque altro. Così i cavalli, i loro puledri, i buoi, i vitelli, i leoni e i cervi, i loro piccoli, e gli uomini, i loro bambini. Allo stesso modo, il padre di tutti accoglie chiunque si sia rifugiato in lui. Dopo averci rigenerato con lo Spirito per adottarci come figli, contempla la nostra dolcezza. Ama noi soltanto, ci aiuta, combatte per noi e per questo ci chiama bambini. Allegoria di Isacco e Rebecca. Anche Isacco vorrei annoverare come fanciullo. Isacco significa ridere. Egli stava scherzando con Rebecca, sua moglie e suo aiuto, quando il re, curioso, lo vide. Questo re che si chiama Abimelech mi pare che rappresenti una sapienza ultramondana che osserva dall'alto il mistero del gioco. Quanto a Rebecca, il suo nome significa perseveranza. È un gioco davvero saggio questo, in cui il riso è aiutato dalla perseveranza e in cui il re è sorvegliante. E lo spirito dei bambini in Cristo, che vivono nella perseveranza, si rallegra. Anche Eraclito dice che il suo Zeus giocava un gioco simile. Quale occupazione, infatti, si addice a chi è sapiente e perfetto, se non questo scherzare e rallegrarsi insieme con la perseveranza nel bene e con la retta gestione del bene, facendo festa tutti insieme all'ode di Dio? Il testo profetico citato, però, può essere interpretato anche in un altro modo, cioè intendendo che noi, come Isacco, ridiamo e ci rallegriamo per la salvezza. Egli, infatti, rideva essendo stato liberato dalla morte, scherzava e gioiva insieme con la sua sposa, quella sposa che è il nostro aiuto per la salvezza, la Chiesa. Essa riceve il saldissimo nome di perseveranza, o perché essa sola rimane nella gioia per sempre, per tutti i secoli, o perché è costituita da tutti i credenti che perseverano, cioè da noi, che siamo le membra di Cristo. Ed è proprio la testimonianza di tutti coloro che perseverano fino alla fine e il ringraziamento per loro che costituisce il mistico gioco. E la salvezza che, con santa gioia del cuore, è l'aiuto. Il re, poi, è Cristo, che dall'alto osserva il nostro riso e sporgendosi dalla finestra, come dice la scrittura, contempla questo ringraziamento, questa benedizione, esultanza e gioia, questa perseveranza che collabora. È l'unione di tutte queste cose che è la Chiesa, la sua Chiesa. E così egli disvela ad essa il suo volto, l'unica cosa che ancora mancava alla Chiesa, già per il resto perfetta e completa, in quanto dotata del suo capo, che è il Re. Ma quale era questa finestra attraverso cui si mostrò il Signore? È la carne, per mezzo di cui si è manifestato. E se vogliamo accogliere un'altra interpretazione, lo stesso Isacco può essere considerato figura del Signore. Era fanciullo e quindi figlio, figlio di Abramo, come Cristo è figlio di Dio, e fu una vittima sacrificale, come il Signore. Ma diversamente dal Signore non fu immolato. Isacco portò solamente la legna per l'olocausto, come il Signore portò il legno della croce. E il suo mistico ridere era un profetizzarci che il Signore ci avrebbe riempiti di gioia, riscattandoci con il suo sangue dalla perdizione. Ma Isacco non patì la morte, e questo da una parte per cedere il primato della sofferenza al Logos, come era giusto, e dall'altra per simboleggiare la natura divina del Signore. Egli infatti non fu ucciso, e così anche Gesù, che pure fu immolato, risuscitò dopo essere stato sepolto senza aver subito la corruzione, proprio come Isacco che fu risparmiato dal sacrificio. Il bambino divino. Un altro argomento di grande importanza vogliamo ancora addurre a sostegno della nostra tesi. Lo Spirito, vaticinando per bocca di Isaia, dà il nome di bambino al Signore stesso. Ecco, un bambino è nato per noi, ci è stato dato un figlio. La potestà è sulle sue spalle ed è stato chiamato Angelo del Grande Consiglio. Chi è questo bambino piccolino, ad immagine del quale anche noi siamo bambini? Il medesimo profeta annuncia la sua grandezza. Mirabile consigliere, Dio potente, Padre eterno, principe della pace nell'accrescere l'educazione, e la sua pace non ha confini. O grande Dio, o bambino perfetto, figlio nel Padre e Padre nel Figlio. E come non sarebbe perfetta l'educazione impartita da questo bambino, la quale raggiunge noi tutti fanciulli ed è la pedagogia che ci guida, noi piccoli del bambino. Egli ha steso verso di noi le sue braccia, che sono divenute per noi oggetto chiaro di fede. Anche Giovanni, il profeta più grande tra i nati di donna, rende testimonianza a questo bambino. Ecco l'agnello di Dio. Dal momento che la scrittura dà il nome di agnelli ai bambini, essa designa anche Dio, che si è fatto uomo per noi e ha voluto essere simile a noi in tutto, chiamandolo agnello di Dio, figlio di Dio e bambino del Padre.